Sì, allora io vi sento poco, scusate, perché qua non è semplice, siamo veramente in un corteo strettissimo, veramente molto compresso, e c'è la musica. Però mentre andava questa corrispondenza io l'ascoltavo, vi volevo dire che intanto c'è stato questo momento che è un po' una costante in questi cortei, che è quello appunto di fermarsi e tutte tirare fuori le chiavi, sventolarle in alto a significare che l'assassino ha le chiavi di casa. L'abbiamo detto, lo ripetiamo tutti i giorni, tutti gli anni, troppi sono i femminicidi che accadono nelle famiglie, in quelle case che vengono millantate, che dovrebbero essere le pareti sicure delle famiglie. Quale famiglia ci chiediamo, se la famiglia Cissetero poi produce tanta violenza, una violenza di cui ci sembra palese che il mondo maschile delle istituzioni, quindi diciamo la gran parte, veramente non si assume la responsabilità, oppure veramente ha ormai introiettato un'autoassoluzione vergognosa. È un appuntamento che si fa, ci si ferma su via Cavour, tiriamo fuori le chiavi, insomma è veramente un momento che fa venire i brividi. Vengono ricordati i numeri di quest'anno, ma anche degli altri anni, che ahimè non cambiano di tanto. Questo lo volevo dire perché è proprio un po' una di quelle tappe che fa questo corteo, e ad uno dei punti dove più porre l'attenzione. Non solo le vittime di femminicidio, spesso da morte, diciamo, vengono così, viene fatta un po' una radiografia delle loro vite, la loro uccisione viene spesso circondata dalla parola amore, quando la violenza che si scatena su di loro viene appunto ancora troppo spesso chiamata raptus. Non ci sono raptus, quello non è amore, è violenza patriarcale, è violenza macista, e noi non ci stiamo a vedere che queste donne vengano poi dimenticate anno con anno e risostituite da numeri. Aggiungo che a questo si aggiunge la tragedia, ma insomma non mi piace chiamarla tragedia perché abbiamo imparato queste cose da persone fortissime e che ci mettono un'enorme dignità a rivendicare i loro diritti, che sono poi i figli di questi femminicidi, le figlie di questi femminicidi, quei giovani, giovanissimi che si trovano a vedere la propria madre uccisa troppo spesso proprio dalle mani del padre. Questa è un'altra di quelle cose che vogliono relegare a un problema femminile, come se ci ammazzassimo da sole. La violenza dentro le mura di casa è una costante, le nostre case non sono sicure, torniamo a ripeterlo, l'assassino ha le chiavi di casa.